La vita cristiana non è una vita di riposo. I figli di Dio infatti sono chiamati a servire Gesù Cristo. 1 Pietro 2, 9, a lottare per la fede e a combattere, Efesini 6 e 12. In merito al combattimento Paolo ha scritto: rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi, nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. È anacronistico affermare che il cristiano è sempre in guerra? È poco piacevole ricordare che non ci è congedo in battaglia. Ecclesiaste 8:8, perciò egli deve sempre indossare l'armatura di Dio composta di cintura, corazza, calzari, lo scudo, l'elmo e la spada. In questa armatura che deve indossare il cristiano vi sono parti offensive e difensive, ma ve ne è una che non è né l'una né l'altra, ma ugualmente importante. Mi riferisco ai piedi calzati della prontezza che dà l'Evangelo della pace. Dunque, vi è una prontezza che un figlio di Dio deve avere per rivestire l'intera armatura, senza la quale è vulnerabile agli attacchi del maligno. Forse si pensa che un paio di calzari non siano poi così tanto importanti, ma essi possono permettere di poter camminare speditamente. Infatti, la vita cristiana è vista anche come una corsa e non come una scampagnata. Quando si corre occorre impiegare tutte le proprie energie e impegno e spesso il fiato viene meno. Consideriamo questa prontezza alla luce della parola di Dio, prontezza nel testimoniare, nell'evangelizzare, nell'ascoltare, nel dare del denaro, nella disciplina, nel morire e nel ritorno di Cristo. Un figlio di Dio deve essere pronto a testimoniare. 1 Pietro 3 e un quarto. Se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Or non abbiate di loro alcun timore e non vi turbate. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore, avendo una buona coscienza, affinché quando vi accusano di essere dei malfattori vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Chi ha posto fede in Cristo è chiamato a rispondere a chi pone domande sulla fede che possiede. Il Signore non vuole che i suoi figli siano dei martiri muti. Prima o poi chi ha posto fede in Cristo è chiamato a spiegare la ragione dei suoi atteggiamenti contrari al costume, come pregare e rendere il culto alle persone. È facile dedurre che Pietro, quando scrisse queste parole, pensasse a quando fu chiamato davanti al Sinedrio per rendere ragione della guarigione di uno zoppo nel nome di Gesù. E Pietro fu pronto. Un figlio di Dio deve essere preparato a rispondere ai più comuni problemi biblici con rispetto e dolcezza, perché sono il frutto del Spirito Santo. Un figlio di Dio deve essere pronto a evangelizzare. Romani 1 e un quarto. Io sono debitore ai greci e ai barbari, ai savi e agli ignoranti. Così quanto a me, sono pronto ad evangelizzare anche voi che siete in Roma. Essere pronti significa essere disposti e preparati. Paolo era pronto e preparato ad evangelizzare. Dio non chiama solo i suoi figli a rispondere a chi chiede ragione della sua fede, ma ad alcuni ha dato l'ordine di lasciare l'attività secolare per dedicarsi totalmente a predicare l'Evangelo, cioè ad evangelizzare. Evangelizzare significa fare conoscere Gesù Cristo e non una religione. È certamente utile distribuire trattati che parlano di Cristo, ma questo è più un testimoniare che evangelizzare. Evangelizzare significa parlare, far conoscere che Tutti gli uomini sono perduti e possono ottenere la salvezza con un atto di fede in Gesù che è il Salvatore. Predicare un Cristo che salva alle persone senza presentare prima lo stato di perdizione non ha senso. Il salmista disse: «Ho creduto, perciò parlerò». Chi può stare zitto quando si è creduto in Cristo? Chi può rimanere fermo quando Dio manda? Essere disposti a testimoniare ed evangelizzare è la conseguenza di una vera fede in Cristo. Un figlio di Dio deve essere pronto ad ascoltare. Giacomo 1,19. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. L'esortazione di essere sempre pronti ad ascoltare è valevole per tutti. Vi è l'opinione errata che la qualità essenziale sia quella di saper parlare, ma essere in grado di aiutare una persona è qualcosa di più difficile che il lavoro del medico, perché si tratta spesso di saper ascoltare oltre le parole. Chi non sa ascoltare non sarà mai un buon operaio di Dio. Non sa ascoltare chi pensa di sapere già in anticipo quello che sta per dire l'interlocutore, chi ha fissato precedentemente un giudizio sull'altro. Chi cerca di sentire solo ciò che vuol sentire, chi non permette al suo interlocutore di finire il suo discorso, e colui che vuole imporre all'altro il proprio punto di vista. E, per questo che la parola di Dio afferma che chi non sa ascoltare non sa neppure rispondere. L'atteggiamento di ascolto è indispensabile nel matrimonio e in ogni sfera di relazione con il prossimo. Un figlio di Dio deve essere pronto a dare, 1 Timoteo 6,17-19. Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi e di non riporre la loro speranza dell'incertezza delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi e di essere pronti a dare, mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. Ciò che Paolo ha scritto a Timoteo è valevole per tutti i figli di Dio. 2 Corinzi 9:2-5. L'Evangelo dà la prontezza anche nel dare economicamente, perché dopo aver considerato come il Salvatore si è fatto povero per arricchire molti, il credente desidera imitare il suo Salvatore. Secondo la Scrittura, 2 Corinzi 8:7-9, il dare è il risultato della schiettezza. Chi dice di amare il Signore non può esimersi nell'impegnare il denaro per l'opera di Dio. Un figlio di Dio deve essere pronto alla disciplina nella Chiesa. 2 Corinzi 10:6. Noi siamo pronti a punire qualsiasi disubbidienza, quando la vostra obbedienza sarà perfetta. I Corinzi erano carnali, camminavano secondo l'uomo, erano orgogliosi. Perciò Paolo sta dicendo che egli era pronto alla disciplina quando essi erano pronti a giudicare il male, cioè disciplinava solo se loro erano d'accordo. Nella Chiesa occorre la disciplina, oltre che servire e pazientare. Coloro che vegliano sul gregge devono essere pronti ad amare e a servire, ma, come un padre, anche a correggere con disciplina. Un figlio di Dio deve essere pronto a morire. Atti 21:10-14. E, restando noi lì molti giorni, un certo profeta di nome Agabo scese dalla Giudea. Venuto da noi, egli prese la cintura di Paolo, si legò mani e piedi e disse: «Questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura e lo consegneranno nelle mani dei gentili». All'udire queste cose, noi e quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Ma Paolo rispose: «Che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». Non tutti sono capaci di essere pronti a morire. Se il Signore ci chiamasse ora, molto probabilmente non saremmo pronti. Paolo era sempre pronto a morire, anche con una morte cruenta. Colui che ama Dio non dovrebbe preoccuparsi di come muore, ma di glorificare Dio anche nell'ultimo atto estremo della sua vita. Si è pronti alla morte fisica quando ogni giorno si muore al peccato, al mondo, a se stessi. Il cristiano vede la morte come una liberazione, è entrare in possesso di ciò che lo aspetta. Quando Pietro disse a Gesù che era pronto a morire per lui, era mosso dai soli sentimenti umani. Un figlio di Dio deve essere pronto al ritorno di Cristo. Matteo 24, 42-44. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Se non si è pronti a evangelizzare, a testimoniare, ad ascoltare, a dare, ad essere disciplinati, a morire, difficilmente si è pronti per il ritorno di Cristo. E poiché il ritorno di Cristo è improvviso, bisogna essere pronti ad ogni istante. Nella parabola delle 10 vergini Gesù afferma che lo sposo tardava. Si tarda quando l'assenza è più lunga del previsto. Negli ultimi tempi l'attesa del ritorno di Cristo si farà sempre più sentita. I figli di Dio arderanno dal desiderio di essere rapiti da questa terra. Ma Gesù tarderà. Ma chi avrà indossato tutta l'armatura di Dio, avendo anche i calzari della prontezza, che dà l'Evangelo della pace, sarà ben fornito e ben preparato. E non vi è nulla di meglio per il glorioso incontro con Cristo Gesù. Febbraio 2005. Ellero.